Misero cor di padre, e che farei? Partir come il tuo amor, in due lo scettro non puoi. Se togli all'un ingiusto sei, se all'altro sei crudele, e in ambi incontri la tua pena. Che son dell'error mio, vendicatrici furie fini miei, più fiera al cor, quanto più dolce agli occhi. Signor, pria che lo sposo a Rosane tu scelga, io torno ancora supplice a te. Non vuoi tue promesse l'impegno ramentar, né per lo figlio io prego più. Misero già non valse un padre impietosir di quell'idea. Non posso usar pietà senza essere impio. No, non voglio a mio pro e del mio amor il merito. Né più vergine, né sposa la perdita fatale allor ch'io piansi, con quei dolci lusinghi dolci detti, tu le lagrime mie non rasciugasti, mischiasti pur in il tuo pianto al mio, e si infedele, e si diverso orsegno. Non da leggi un antico a nuovo fallo, anzi ch'io vuo questo succedendo al primo cercar amenda. Obbliate al dunque quelle premure tue dei miei contenti, che motivi d'affanno or mi procacci. Io t'amo ancora, ma sol quanto si deve a padre, a sposo, a regge. Anche una volta te mi guarda, mi vedi, son pur quella a te si cara, tante volte tante tua sposa ancor dicesti. Per questi quegli occhi al tuo cuore dolci saette d'adorare ti piacea, così si tende. Ragion corregga ciò che cieco apprai. E non potei gli affetti, i voti, i sospiri, più vigor. Io soffro in pace aver perduto sul tuo cor comando, ma non appresso lui forza coi preghi. Caro, se t'adorai, se tu... Molestio mai tu sei! Non ti fietare un giorno, pur quella sono ancor che tua delizia. Donna, tu il tempo e le lusinghe getti. Dunque singordo sei del pianto mio, godi ne se ti piace, che stillato dal afflitto mio cor, ne vieni in copia a saziare tua sete. Un sol conforto promettesti, io sperai a mali miei, questo mi manca ancor. Misera madre, d'un infelice figlio! In sé mi sveglia l'andate tenerezze. Io non dispero. Qual io de tuoi, tu ancor de casi miei, da mira avi pietà, di più non posso. Qual legge e chi, for che tu stesso il vieto? I rimorsi del cor, ragion di regno. Quella ragione, quei rimorsi tardi, nati fora mio danno, mi tradita potran voler. Il sarò sì, ma furia peggioressi, sarò per te, pria viva, t'agiterò col mio furore, col tuo. sento pietà. Tu mi vedrai sparsa il crin di gli occhi, il volto tinto di morte. Furiosa corre le vie per ricercar vendetta. Oh, per timore, per pietà, oh, per sdegno, chi fia che me la nieghi? Il dolor frena, cara Damira. Egli vacilla. Poi che morto avrò trovata te d'intorno, ombra verrò tradita e non placata a cercar la mia vittima. Ti calma, sarai contenta. Vendicato io sia. No, il figlio tuo. Sì, è infelice. Di quest'impero. Sarà schermo. In fronte. Porterà per tua colpa indegna macchia. Porterai glorioso. Tu nome solo, d'averlo un disperato ma perduto. Pacchetta, il glorioso. Sento forse. Sì, sarà sol. Ma che, dove trascorro? Succeda pur che vuol, la tua e del figlio morte preceda. Seguirò via di te, ma un rimorso di me n'avrò compagno. Eran le madri, i figli, il padre, il solio. Così devo a ragion, e così voglio.